No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Buonasera, buonasera. Sono le 18:11, ovviamente abbiamo iniziato in ritardo perché siamo le ribelli e quindi gli appuntamenti noi li schifiamo un pochino e arriviamo in ritardo, iniziamo in ritardo e abbiamo sempre problemi tecnici. Quindi questa è una bellissima intro per le ribelli, io sono Gioia, qui con me ci sono delle bellissime, bravissime, intelligentissime compagne. E infatti questa è una puntata un po' particolare perché le ribelli hanno collaborato insieme alla Rete Studenti Milano, un collettivo di studenti medi, una rete, e quindi sono qui con me queste bellissime, bravissime, intelligentissime compagne e presentatevi. Ti fai arrostire così. È giusto, quindi. Ciao a tutti e tutte e tutto. Io sono Rebecca Gazzola della Rete Studente Milano e non so se sono all'altezza della descrizione di Gioia, ma sono qui. Io sono Chiara, sempre della Rete Studente Milano, e siamo molto felici di essere qua ospiti a questa stupenda trasmissione di queste intelligentissime e bellissime ragazze. E poi qui con noi c'è anche Eleonora, anche lei adesso le diamo un microfono. Così si può presentare meglio. Sono in ritardo perché mi sono avvicinata con la sedia roteante in questo studio spaziale, che è quello studio di Radio ZM a ZAM. Io sono un abitante del quartiere, sono una compagna di recente acquisizione, sono molto felice di essere qua a parlare di femminismo e di lotte e di mobilitazioni e di resistenze insieme a voi ribelli. Grazie dell'invito. Grazie a te Eleonora anche di questa intro. Giustamente bisogna anche dire qual è il tema di oggi, e il tema di oggi è un po' sicuramente particolare. Non so, c'è qualcuna di voi che vuole introdurlo? Ma oggi siamo qua a fare un'altra puntata della serie di trasmissioni radiofoniche sempre con Radio ZM che stiamo portando avanti di lancio al 16 marzo, di lancio all'anniversario della morte di Dax. E oggi parleremo di transfemminismo perché è il 7 marzo, perché domani è l'8 marzo, perché non si può non parlare di transfemminismo nel 2021 e fare più informazione possibile. E appunto ringraziamo ancora le ribelli che ci hanno dato questa opportunità di parlarne qua adesso. E poi c'è anche da dire un'ultima cosa, che la puntata di oggi fa parte anche di un percorso di avvicinamento a ricordo la commemorazione di Dax. Chiara? Sì, assolutamente, sei stata precisissima. Quindi possiamo dire che il tema di oggi ovviamente interseca queste tematiche, le attraversa tutte, per ricordare che antifascismo è transfemminismo. Certo, antifascismo e transfemminismo, e nonostante sembrino due lotte, due percorsi molto lontani tra loro, la storia ci insegna che non è così. Ce lo insegna nella fine degli anni Ottanta l'attivista Crenshaw, che inizia a parlare per la prima volta di intersezionalità delle lotte. L'intersezionalità delle lotte è semplicemente un filo rosso, un fil rouge che collega... dimostra un collegamento, una sovrapposizione delle varie identità sociali, che possono essere il genere, l'etnia, la classe sociale, l'orientamento sessuale, l'abilità, la religione, insomma tutte le identità sociali che ritroviamo nella nostra società adesso. Queste appunto identità interagiscono, nonostante sembrino lontane tra di loro, appunto come l'antifascismo e il transfemminismo, interagiscono e non sono assolutamente indipendenti tra di loro. La cosa che probabilmente le collega al meglio è il concetto di potere, di cui approfondirà molto anche Foucault. E la cosa importante da sottolineare del potere è che il potere definisce chi è in posizione marginalizzata e chi marginalizza una determinata categoria. Si può guardare in realtà questa cosa anche con un concetto molto marxista di lotta di classe, se così la vogliamo mettere. La domanda che ci si pone è come opera il potere per servire appunto questa logica di marginalizzazione, di esclusione, perché alla fine si parla di esclusione e di inclusione, e lo possiamo vedere banalmente con il fatto che determinate categorie sociali hanno più opportunità nella vita, hanno più agi, hanno un senso di appartenenza ad una società che gli sta comoda, al contrario di altre categorie. Si parlerà anche del concetto di, sempre Foucault, approfondirà il concetto di proibizione, e questo lo vediamo tantissimo anche dal linguaggio, cioè quante volte nei libri di scuola si vedono maschi bianchi etero che incarnano la figura di padre come ruolo nella società predefinito e praticamente già scritto, come l'uomo virile, come l'uomo che porta a casa i soldi, che va al lavoro mentre la donna si occupa del focolare domestico. Il fatto è che il vero e il falso vengono anche manipolati per far funzionare questa mentalità. Spesso appunto il padre di famiglia non è sempre bianco, non è sempre maschio, non deve essere per forza maschio, anzi, e non, neanche etero, non deve essere neanche per forza etero. E quindi vediamo appunto il potere servire questa logica di normale e diverso. La normalità è una parola che onestamente ci sta molto stretta. E il normale, il concetto di normale e diverso, di esclusione e di inclusione, fanno semplicemente legittimano, fanno sì che esistano dei binarismi, fanno sì che esista il binarismo uomo-donna, e sappiamo benissimo che non è così, e l'abbiamo scoperto purtroppo recentemente, ma adesso lo possiamo dire fieramente, il concetto di bianco e nero, il concetto di italiano e straniero, abile, disabile, cattolico, musulmano, e vediamo appunto questo paradigma binario starci molto stretto, molto scomodo e non rappresentare appieno la realtà. E appunto come ci colleghiamo al discorso iniziale? Beh, il fascismo è, diciamo, il migliore amico di questa paura del diverso, di questo allontanamento, di questa esclusione di chi viene reputato diverso, ma non è altro che un cittadino, una cittadina del mondo che semplicemente viene appunto marginalizzato per ciò che è, per mostrarsi com'è. E appunto non serve spiegare perché il fascismo non concorda, non segue la logica transfemminista, perché mi sembra abbastanza autoesplicativo. Ho provato a fare una breve intro, ma vogliamo chiamare una compagna di non una di meno, Carlotta, che probabilmente saprà parlare di intersezionalità molto meglio di come ho fatto io, e ci racconterà anche come avevo fatto cenno a Chiara di mettere prima una canzone, ma no, l'hai messo canzone. Giù adesso, la richiamerò dopo, non c'è problema, povera Carlotta. No, non mi aveva risposto, bella cronaca. Allora chiamerà sul più bello quando ascolteremo questa canzone. Esattamente. E allora vi ho fatto un po' un regalo, perché questa è una canzone da giovani, sì. E quindi che Eleonora approva. E quindi a voi, le ragazze di Caivarate, di Comagatte. Yeah. Quartiere IACP fino allo DTBB, sui muri vestiti B, tu sai come chiamarci. Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate. A 17 un figlio il marsupio pesa, un chilo sognando casa, Rio scappiamo Nino, Nino. Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, non ci serve che fai la dura, almeno a noi non ci fai paura. Le bella magra, le bella curva, bella truccata, bella col burka. Mamma, io esco senza il permesso, andiamo in centro senza il biglietto. A molto stile equivale zero, io faccio stile nel 9-0. Vi racconto la zona mia, facciamo business in lavanderia. Da piazza in Subria la senti la scia, tu wanna be io da via più via. Da dove vengo alzo quattro dita, faccia da bimba ma sono maldita. Il tuo ragazzo, amica mia, ha su di noi troppa fantasia. Le ragazze di Calverate, le ragazze di Calverate, le ragazze di Calverate, le ragazze di Calverate. Z4. Il video di Mischeta porta a Venezia, bella sorella. Ma ora ci pensa Serena, la situa è diversa, chiedilo a Tedua. Giro in ciabatte a piazzale Cuoco, guardo i fuochi in cielo, mi chiedo chi è morto. Salam aleikum quando entro ai negozi, niente radio, c'è il Corano in sottofondo. Siamo le ragazze di Calverate, non capisci, è normale. Non sei di qui, meno male, i tuoi amici marchettare. Usiamo i calzini come portafoglio, vivo il quartiere come lo vive un uomo. Oye papi, noi amarme linda, perché si me impingo me pongo de pinga. Le ragazze di Calverate, le ragazze di Calverate, le ragazze di Calverate, le ragazze di Calverate. Z4. Rieccoci qui. Beh, vi ho fatto un bel regalo. Cosa ne dite? Assolutamente. Questa musica da giovani. Ci piace. Allora, mentre Chiara prepara la telefonata, io ricordo i canali. Stava già chiamando. Sì, ci sta richiamando okay. In questo momento. Va bene. E rispondiamo. Subito. Siamo qui collegate con Carlotta, di una di meno. Ciao Carlotta. Ciao Carlotta. Ciao. Ciao, come ben sai siamo qua a Radio ZM a parlare di antifascismo, transfemminismo, 8 marzo, di tante cose belle. E la prima domanda che ti vogliamo fare in collegamento a ciò che appunto abbiamo appena un po' descritto è come si possono collegare le lotte dell'antifascismo e del transfemminismo, secondo te? Allora, è una domanda molto ampia che meriterebbe sicuramente più spazio di quello che posso dargli io adesso, però innanzitutto credo che queste due lotte siano estremamente legate perché sono simili, se volete, le forme di oppressione che combattono. Questo non per dire che tutto sia uguale a tutto, ma che ci sono delle strutture e dei rapporti di potere che danno vita sia all'oppressione patriarcale che all'oppressione fascista, che agiscono in modi diversi ma con gli stessi paradigmi. Facciamo degli esempi per comprenderci, no? Sicuramente il sistema patriarcale divide i generi in due, lo sappiamo, maschile e femminile, assegna delle gerarchie ben precise, suddivide quindi l'ordine della società a secondo queste gerarchie, strutturando delle forme di sfruttamento e appunto di oppressione. In qualche modo, no, la stessa cosa fa il fascismo, strutturando il campo della politica in una netta divisione di nemici e amici, stabilendo delle forme di vita che sono superiori ad altre, costruendo su queste delle gerarchie e delle oppressioni. E questo, diciamo, in termini generali. In più, se andiamo a vedere, è chiaramente non che tutto il patriarcato sia fascista, ci sono anche tantissime, troppe forme di patriarcato non fascista, ma se vediamo il patriarcato, il fascismo è stato fortemente patriarcale. Pensiamo alla costruzione del ruolo della donna o delle soggettività LGBTQIA+, in tutte le forme di fascismo, sono state schiacciate, represse, sono state relegate a dei ruoli profondamente definiti. Quindi, in quanto tale, no, l'antifascismo non può che dirsi transfemminista, nel senso che appunto combattere il fascismo significa combattere anche questa impostazione, e quando non lo si fa, quando non si riconosce che appunto le forme di oppressione sono comuni e hanno dato vita a una struttura di potere, si rischia di combattere delle forme di antifascismo monche, no? Che mancano di qualcosa. Questo ce l'hanno insegnato fin da subito le partigiane, per esempio, che combattevano in quanto antifasciste e in quanto donne, no? Per chiedere la liberazione dal fascismo, ma anche la liberazione dall'oppressione di genere. Questo anche perché, appunto, no, oramai credo che lo sappiamo, nessuna e nessuno di noi vive una vita a una sola dimensione, con un solo colore, no? Siamo oppresse magari in quanto donne e anche in quanto povere o migranti o lesbiche o qualsiasi altra cosa, e in quanto tale, no, le nostre forme di lotta devono essere il più complesse possibile, per cui no, come il nostro transfemminismo si nutre di antifascismo, perché non ci basta criticare il patriarcato, ma vogliamo anche criticare le forme di potere che da lì derivano, e così il nostro antifascismo non può che dirsi transfemminista, perché non ci basta abbattere il fascismo senza abbattere le strutture patriarcali che lo sostengono. Grazie mille Carlotta, sei stata precisissima. Volevo farti un'ultima domanda, certo. Senza volerlo abbiamo parlato della stessa cosa, abbiamo parlato del vedere il mondo in bianco e nero, nemici e amici, e ovviamente includere gli amici, escludere i nemici e soprattutto dei binarismi. Certo. Volevo farti una domanda un po' particolare. Volevo chiederti se la tua visione si può dire più anticategorica o infracategorica. Cioè, mi spiego meglio. Pensi che sarebbe più giusto, il mondo sarebbe un posto migliore abolendo queste categorie, categoria uomo, donna, bianco, nero, insomma le etichette, o iniziando a guardarle con un approccio diverso? Allora, anche questa è una domanda molto complessa. Ti risponderei in due modi diversi. Diciamo, nel mondo dopo la rivoluzione, no? Nel mondo che vorremmo, chiaramente forse le categorie non avrebbero più tanto senso di esistere, perché saremmo in grado di vedere le molte sfaccettature di ognuna e ognuno di noi, no? E quindi sarebbe difficile forse ricondurre ogni persona a una e singola categoria. Però, visto che non siamo ancora purtroppo nel mondo che vorremmo, nel post-rivoluzione, credo che appunto guardare alle riappropriarci delle categorie in cui siamo stati messi e messe e rivoluzionarle, cambiarle, risignificarle sia un passaggio fondamentale. Faccio un esempio magari banale, però io ci tengo anche a definirmi come donna, no? Benché sappia che donna non esaurisce tutto quello che sono, ma perché sulla soggettività donna, sul soggetto donna sono costruiti secoli di oppressione e forme di soggettività, no? Forme di come deve essere una donna che mi interessa mettere in discussione e distruggere, e quindi ho bisogno di riappropriarmi anche di quella categoria per poi dargli un accenno nuovo, per ripartire da lì, per dire che essere donna può essere anche un'altra cosa. E in più, ogni tanto, no, queste categorie ci servono per costruire alleanze, per costruire complicità, per riconoscerci come simili e costruire un soggetto politico comune. Per cui credo che nel mondo in cui viviamo oggi, ancora guardare alle categorie con occhi diversi, riconoscerle come non assolute ma come anche strumenti di lotta, possa a volte essere ancora utile. Grazie ancora, ti faccio un'ultimissima domanda. Ci racconti un po' cosa si fa domani? Che appuntamenti, certo, ci sono? Allora, sono molti gli appuntamenti di domani. Partiamo la mattina, allora, per tutte e tutti e tutto, alle 10 in Piazza Affari, per iniziare con i cerchi di discussione tematici che tratteranno alcuni dei temi dello sciopero dell'8 marzo, in particolare la scuola, i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, la salute, il reddito e il lavoro, ma per studenti e insegnanti che si trovano in didattica a distanza in questo momento, abbiamo costruito un angolo della piazza dove sarà possibile fare o seguire le lezioni, e ci si trova a quel punto dalle 8, cioè da quando iniziano le scuole, e ci sarà anche un angolo per bambine e bambini di età, diciamo, prescolare, della fascia fino ai 6 anni, ecco, per cui chiunque può attraversare la piazza. Dopo questa piazza del mattino, sempre gli e le studenti si troveranno alle 16 in Piazza Cairoli per costruire una biciclettata che arriverà poi in Piazza Duomo, dove a partire dalle 17 saremo ad allestire la piazza. E invece a partire dalle 18 ci sarà il vero e proprio presidio, dalle 18 alle 21, 21 e 30 circa, che come dire, raccoglierà tante testimonianze, iniziative, interventi per raccontare appunto le motivazioni che ci portano a scegliere un giorno in cui fermarci, in cui scioperare. Grazie mille per il tuo intervento, Carlotta, sei stata preziosissima. Ti ringraziano le Ribelli, la rete Student Milano. Grazie, Ribelli. E lo staff di Radio STM. Grazie davvero. Ci vediamo in piazza. Grazie Carlotta. A domani. Ciao. Ciao. Mamma mia, ascoltare Carlotta è sempre un'immensa gioia tutte le volte. Terapeutica. E, peccato che il telefono era così lontano, sennò avrei cercato di interagire anch'io, però la tecnologia è quella che è. E niente, allora mandiamo una canzone così riflettiamo bene su quello che abbiamo appena ascoltato. Digeriamo un pochino, esattamente. E quindi adesso c'è un'altra chicca. Siete pronte? Non so se sono pronta. Dovrete esserlo. Non vi spoilerò nulla. Riconosciamo, dici. Es la violencia que no ves. Beh, insomma, direi che non c'era bisogno di presentare questa canzone. Assolutamente, sempre, sempre la più bella, apprezzata. Allora, adesso finalmente posso ricordare i canali, anche a me stessa perché non me li ricordo mai, quindi ovviamente ho più o meno dei bigini. Iniziamo con il dire dove poter ascoltarci. Esiste un bellissimo bottoncino sul sito di ZAM. Appena scrivete www.zam-milano.it troverete sulla homepage il pulsante sotto la scritta On Air Radio ZAM. Quindi direi che non potete sbagliare, altrimenti ovviamente il link c'è sempre sulla pagina Facebook della radio e quindi anche lì cercate Radio ZAM. E invece per i podcast potete ascoltarli sia sul sito di ZAM oppure sul sito di Archive nella sezione delle ribelli e sicuramente qualsiasi riferimento a queste pagine le trovate anche sul canale Instagram delle ribelli che ecco qua, Andrea mi ammazza se non lo dico bene. Quindi Violenza sulle assolutamente, donne. sì. E quindi ci potete trovare scrivendo le trattino basso ribelli trattino basso ZAM. E quindi sicuramente mi sarò dimenticata di qualcosa, ma abbiate pietà e pazienza. La E chat. la chat, giusto, di Telegram, bravissima Eleonora, che è proprio qui sotto il mio naso, tra l'altro. Quindi potete scriverci e fatelo, mi raccomando. Chiocciola Radio ZAM trattino basso chat. Quindi noi aspettiamo i vostri commenti, le vostre suggestioni Gli insulti no? gli insulti no, non li leggeremo, ma ci faranno comunque molto male, sappiatelo. Molto Quindi ridere. anche dipende. Ok, quindi cosa adesso ve lo chiedo, facciamo un po' di partecipazione da regia. Preferite ascoltare una canzone? Perché vabbè, io adoro questa scaletta, quindi io ovviamente voterò sempre per della musica. Oppure andiamo avanti. Ma siccome mi sa che il prossimo punto è abbastanza vario, diversificato e molto ampio, io direi di iniziare e poi magari Va staccare un bene, attimino allora per evitare di. fammi un occhiolino quando mettere la canzone, va Certo, bene? va bene, benissimo. E appunto adesso ci ritroviamo, appunto, siccome siamo in collaborazione con le Ribelli come Rete Student Milano, volevamo parlare un po' appunto del ruolo che può avere la scuola come istituzione nell'appunto la lotta contro il patriarcato, le differenze di genere, il sessismo in generale. Appunto quando parliamo di sessismo, diciamo che comprende diversi tipi di violenza, violenza che sono appunto fisica, psicologica, di linguaggio, violenza nell'alimentare e affermare determinati stereotipi. E quello che può fare la scuola, anzi che dovrebbe, deve fare la scuola, è educare sin dall'infanzia a smantellare questi stereotipi, a non proprio non crearli nella testa dei bambini e delle bambine, ma soprattutto, anzi, appunto, si inizia dall'infanzia, ma poi anche nelle scuole appunto di secondo grado, nei licei, fare molta più informazione sull'attualità, sulle questioni di genere. E questa è una cosa che magari sta anche migliorando, però diciamo che c'è ancora margine di miglioramento assolutamente. E appunto volevamo parlare un po' di educazione all'affettività. L'affettività è quella che comprende tutte le emozioni, gli umori che diciamo che ci determinano i nostri comportamenti. Ed è importantissimo educare all'affettività sin dai primi, proprio primissimi anni di infanzia. Quindi appunto si parla di anche asilo, scuola elementare, eccetera. Si fa spesso l'errore di dire, certo, quella è educazione sessuale, quella è appunto sicuramente importantissima e si fa intorno alla quinta elementare, prima media, educazione sessuale. In realtà no, perché troppo spesso appunto viene fatto l'errore di pensare che l'educazione sessuale sia solo l'educazione appunto dei corpi, descrivere un po' come sono fatti entrambi i sessi, e appunto a parte che ricade troppo spesso nell'educazione del binarismo e quindi non si va a raccontare quello che succede per la riproduzione, quindi uomo, donna, eccetera, ed è molto appunto meccanica come spiegazione. ma in realtà appunto educazione alla sessualità, educazione sessuale deve comprendere anche appunto l'educazione all'affettività, che è assolutamente importantissima. Si tratta di un allenamento appunto nel riconoscere, entrare a contatto con le proprie emozioni, con i propri umori, ed è una specie di allenamento, perché diciamo che va fatto sin dall'infanzia, perché appunto lì è quando si viene a contatto con i primi con le prime esperienze sociali, inizia ad andare a scuola, a relazionarti con l'altro sesso, appunto con persone che non siano solo il tuo nucleo familiare, e appunto bisogna imparare sin da subito a, diciamo, un po' venire a patti con le proprie emozioni, con le proprie e con quelle degli altri, cercare di capirle, comprenderle. E appunto è un allenamento, cioè l'intelligenza, allenare un po' quella che è l'intelligenza emotiva, che è costituita appunto da precise abilità emozionali, e quali l'autoconsapevolezza, l'autocontrollo, e soprattutto cercare di distinguere le emozioni dalle azioni, e quindi appunto avere un momento in cui tu capisci e analizzi le tue emozioni e capisci se è bene agire in relazione alle tue emozioni oppure distaccare le due cose. E questo appunto va poi a, se tu non impari a distaccare le due cose, purtroppo da grande agisci violenza anche fisica o psicologica o quel che è, perché appunto una persona che appunto si vede rifiutato dalla propria donna o anche uomo ha un certo tipo di emozioni e non sa controllarle, non sa gestirle, perché non ha avuto appunto un determinato percorso di educazione all'affettività nella propria infanzia o per adolescenza, e quindi agisce violenza, non sa come reagire, non sa come venire a patti con le proprie emozioni. E appunto è essenziale, la scorsa puntata appunto sull'antifascismo, nel che parte dalle scuole, parlavamo appunto di come le scuole abbiano un ruolo fondamentale, di come troppo spesso viene delegato appunto ai movimenti studenteschi che cercano di fare sensibilizzazione, ma questa cosa è assolutamente, non deve essere, è talmente importante che non deve essere delegato appunto a poche persone, a pochi istituti, pochi insegnanti che hanno appunto questa, la vena un po' più ribelle e consapevole per educare i propri studenti e studentesse, ma deve partire proprio una vera e propria rivoluzione scolastica, un nuovo impegno in quella che è l'istituzione della scuola, per prendersi dei momenti di laboratorio, sin appunto dall'asilo alle elementari, ma anche, ripeto, al liceo, con le medie, liceo, con momenti di riflessione, per cercare appunto di andare in quell'ambito sconosciuto che è quello appunto delle emozioni. E questo perché, sia per il motivo che ho appena spiegato, che poi si sfocia nelle violenze se non si è mai imparato a gestire le proprie emozioni, a conoscerle, ma poi anche perché si va ad alimentare quella che è un po' la mascolinità tossica, che appunto è quella che non permette ai maschi di esprimere le proprie emozioni senza aver la paura di essere accusati, additati, giudicati come magari delle checche. Purtroppo succede molto spesso, è una cosa che ci portiamo ancora addosso. E mentre invece se si impara sin da subito a esprimersi, a confrontarsi con tutti i sessi, educazione all'affettività vuol dire anche appunto educazione alla differenza, imparare a conoscere il diverso e amare il diverso. E quindi è una cosa che appunto, parlavamo di intersezionalità tra le lotte, ricade anche appunto alla lotta contro l'antirazzismo, cioè alla lotta antirazzista e antifascista, e quindi è assolutamente una cosa di primaria importanza. Ma cavolo, comunque complimenti a tutte e due. ci tenevo a dire una cosa per integrare solamente, che penso anche che la difficoltà cioè che l'educazione all'affettività serva anche a dare dei nomi alle emozioni. Spesso infatti è difficile anche, si confondono rabbia e altri sentimenti come odio o comunque sentimenti negativi, no? E quindi nel non conoscere, non riuscire a dare la parola al sentimento, si finisce per confonderle, quindi anche di agire conseguentemente, come dicevi tu. E forse quindi la cosa primaria del perché è importante attivare dei percorsi strutturali in questo senso, anche perché migliorerebbe la vita a tutti, a tutte, a tutto. Assolutamente. E quindi essere più consapevoli di se stessi, di se stesse, dei propri corpi, perché di conseguenza le emozioni, i sentimenti sono corpo, perché hanno delle reazioni fisiche, corporee, che poi portano anche a delle azioni e a delle interazioni, ma sicuramente in primo luogo le porta con se stessi e il proprio corpo. E so che Eleonora mi ha scritto un bigliettino piano piano per chiedermi se poteva fare una domanda a Rebecca. Ecco. Ti lascio il microfono. Sì, allora aspettate che qua c'è tutto un intreccio di fili, ecco qua. No, perché Rebecca devo dire che mi hai un po' preso in contropiede con questo dare valore all'educazione e all'affettività, perché in me, che sono di una generazione diversa, sono un po' più grande, per me educazione all'affettività è sinonimo di cattolici nelle scuole che parlano di amore e sentimento, mentre c'è un altissimo tasso di analfabetismo sessuale proprio. Cioè, a me è capitato in diverse occasioni, facendo un po' di lavoro nelle scuole, un po' tra attivismo e collaborazioni con operatrici sanitarie, sociosanitarie, di vedere che, per esempio, molte ragazze fa loro schifo mettersi il dito in vagina, il contatto col sangue mestruale, parlare di coppetta mestruale o di profilattico femminile, vedi il disgusto sui loro volti. E quindi mi chiedevo, in questo giusto lavoro che si vorrebbe fare sulle emozioni, che però è un lavoro a 360 gradi, appunto come ha detto anche Gioia, dove va a finire il sesso? Cioè l'orgasmo, il piacere, la penetrazione, l'eiaculazione, la masturbazione, l'anorgasmia, tutte quelle cose lì. Hai tipo elencato tutti i tabù, esatto, di questo mondo, ecco, in un secondo. Dove li mettiamo? Beh, allora, capisco il fatto di prenderla un po' in contropiede. E in realtà, come appunto ho specificato, l'educazione all'affettività è più una cosa che, almeno adesso, quando mi sono informata un po' meglio, comunque anche in precedenza lo pensavo, è più una cosa da fare nell'infanzia, proprio perché il bambino o la bambina, sin dalle elementari, appunto, è proprio un allenamento nel conoscere le emozioni proprie degli altri e delle altre, cercare di relazionarsi meglio. Cioè, all'elementari c'è sempre questa cosa, ad esempio, io me lo ricordo perché l'ho vissuta, dell'antipatia verso l'altro sesso, anche quando avevi l'amica era comunque un po' difficile raccontarsi le proprie emozioni, ma lo è sempre stato. E quindi si intende che magari possono essere due percorsi diversi, educazione sessuale e educazione all'affettività, oppure mescolati insieme. Sicuramente l'educazione sessuale, come l'hai detta tu, non va assolutamente eliminata, anzi va integrata, alimentata e migliorata, appunto, per, come dicevo prima, evitare il binarismo dell'accoppiamento solo uomo-donna, ma andare ad ampliare un po' tutto e parlare appunto di cose scomode come il preservativo, la pillola, quello che è. E, educazione all'affettività è proprio una cosa un po' più profonda, che non riguarda semplicemente la sessualità, proprio non è incentrata sulla sessualità in quanto tale, è incentrata un po' è un lavoro su noi stessi e anche sugli altri, noi stessi in relazione agli altri e alle altre, e che poi ricade appunto nella sessualità, perché ovviamente se tu impari a meglio a gestire, a conoscerti emotivamente e a conoscere, a amare le emozioni altrui, a riconoscere le emozioni altrui, poi ovviamente vivi la sessualità in modo ovviamente diverso, in modo più libero, in modo più tranquillo. Come ha detto prima Gioia, giustamente, riconosci le emozioni, le sai riconoscere, quindi non confondi rabbia con tristezza, non agisci rabbia quando invece dovresti agire su te stesso per calmarti la tristezza, per così dire. E banalmente, appunto, percorso di educazione sessuale, come lo dicevi tu, è assolutamente da fare. Percorso di educazione all'affettività, però ovviamente dopo una certa età, non appunto, io mi sembra l'avessi iniziato in quarta elementare, in quinta, adesso non mi ricordo bene. Beh, fortunata, esatto. Io un ben dopo, purtroppo anche questo è un problema, non in tutte le scuole si No, non è un bel percorso, devo dire. Una lezione in 10 anni di scuola, una lezione inutile, tra l'altro. Però appunto educazione all'affettività è una cosa che può partire appunto dagli anni dell'asilo, dai primi anni delle elementari, banalmente facendo magari delle lezioni non con i banchi schierati verso l'insegnante ma banchi in cerchio per guardarsi negli occhi, passarsi magari un oggetto per prendere la parola, allenarsi sull'ascolto degli altri e di se stessi e stesse, magari tipo scrivere banalmente, molto laboratoriale, scrivere su dei fogli la propria carta d'identità, scrivere le proprie emozioni, come ci si immagina, cosa si vorrebbe fare, perché quale giocattolo si ama di più, perché così si va anche a capire un po' appunto gli stereotipi dei giocattoli, tipo una bimba che scrive per me la bambola, il bambino per me il trenino giocattolo, eccetera. E poi appunto scambiarsi questi fogli e uno legge quello dell'altro o dell'altra e quindi interpreta un po' anche le emozioni dell'altro, le capisce, insomma tutte queste cose qua. Ed appunto per cercare sia di conoscere le proprie emozioni ed evitare di agire violenza in futuro, ma anche evitare di ricadere in stereotipi, abituarsi agli stereotipi di genere. Questo senza eliminare l'educazione sessuale, assolutamente. Beh, comunque tipo ha già, non so, citato chissà quanti laboratori possibili da fare. Bomba. Quindi ottimo che ci sono i podcast, perché così si può dare spunti a tutto, per attivare magari dei percorsi nei propri contesti. E sicuramente poi c'è da dire che non si possono fare qualsiasi laboratorio va bene per qualsiasi fascia d'età, ovviamente, no. Quindi non è mai troppo tardi. Beh, io magari con le bambole ci gioco ancora, non so voi. No. Io i cartoni li guardo ancora, vedi, quindi esatto. Se sono belli sono belli. Ok, allora adesso prendo io il scettro del potere e direi di mandare 2 canzoni. E così ci rilassiamo un attimo. Quindi adesso è il turno della canzone Malo di Bebe. Ho detto bene, Rebecca? Benissimo, ed è una canzone bellissima che parla appunto di un uomo che agisce violenza fisica su una donna, che vuole costringerla a fare l'amore anche se sono appunto in un rapporto di coppia, ma hanno dei figli, lei non vuole, insomma, dinamiche varie. Lo dico perché in spagnolo magari non è facile di comprensione per tutti. E appunto lei che a un certo punto risponde, trova una forza interiore per reagire e dice che si trasforma in fuoco, appunto trasforma la sua, parlavamo di emozioni, trasforma la sua frustrazione, la sua tristezza, la sua paura, dice proprio trasformo la mia paura in fuoco e rispondo. Buon ascolto. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón.

Rieccoci qui, abbiamo ascoltato Glory Box dei Portishead e ora andiamo avanti con il nostro momento di riflessione molto spirituale, no? Non è vero? Abbiamo appena parlato di orgasmo. Esatto, abbiamo... beh, non si può dire cosa abbiamo fatto. Allora, quindi adesso sentiamo Andrea. Quindi Chiara, se vuoi far partire la chiamata, vai, intanto vai, okay. Intratteniamo, facciamo musica di sottofondo, tutto. Chi è Andrea? Ascensore. Andrea è una ribelle. Ecco. Esattamente. Presentiamola. Andrea è una ribelle, che oggi ovviamente non poteva stare con noi in radio in presenza perché abita fuori Milano. Buonasera a tutti! Buonasera Andrea, ciao! Ciao! Come ciao. Stai? Molto bene, vi stavo ascoltando, ho appena sentito che stavate parlando di orgasmi, molto bene, molto bene a parlare di orgasmi. Anche tu stai parlando di orgasmi? No, io no, sono qua con il mio migliore amico, ero solo un po' agitata, perché effettivamente essere lì è un conto, essere a casa in chiamata fa più paura. È vero. Non so perché. Addirittura paura? Sì, un po' di inquietudine, cioè, la, un po', capito? Ma no, quel della no. Brianza, brutto qua, ma alla fine qua. È come se tu fossi qui con noi e noi insieme a te. Sì, no, è vero, mi sento un po' basse. Lo so. Vabbè, perché ciao ragazze, comunque ciao. Ottimo lavoro, siete molto brave, e grazie. Vi faccio i miei complimenti. Grazie mille, siamo lusingate. Ci state facendo troppi complimenti. Siete molto molto molto brave. Allora Andrea, non so se tu mi senti perché c'è il telefono in mezzo al tavolo e sono dall'altra estremità. Ok, adesso no, me l'hanno avvicinato. Ti sento, okay, Gioia, perfetto. Ti sento. Perfetto, infatti cerco di non urlare troppo al microfono, ma non so se questo escamotage... No, ti sento, un po' bassa ma ti sento. No, ok, normale. Comunque, perché ti abbiamo chiamata, Andrea? Di cosa ci vuoi parlare? Allora, io in realtà volevo parlare sempre di educazione all'affettività, però trattandola un po' da un punto di vista diverso, nel senso che la mia grande domanda è perché è così difficile parlare di educazione all'affettività anche all'interno delle scuole? Io quest'anno mi sono ritrovata a fare l'insegnante, nel senso che mi sono ritrovata... Per sbaglio. Sono finita dentro la scuola, tra l'altro pubblica, quindi vedi effettivamente come funziona ovviamente dal punto di vista interno la struttura scolastica statale. E ragazzi, a proposito di fascismi, ha un po' quella struttura lì, nel senso che se noi andiamo a fare un'analisi storica di quello che è la struttura educativa, vuole un po' promuovere quella che è l'educazione a cassetto, quindi basata su una quantità piuttosto della qualità. E perché parlo di questo nel momento in cui andiamo a parlare dell'educazione all'affettività? Perché alla fine noi siamo abituati appunto a vivere frustrati, nel senso che c'è sempre il focus che viene dato dalla scuola, dagli insegnanti, tendenzialmente è quello di focalizzarsi sul tuo errore e su quello che a cui tu non arrivi, piuttosto che valorizzare quello che tu sei e la tua personalità. Di conseguenza questa è proprio l'educazione all'affettività, essere coscienti del fatto che sia all'interno di una relazione sociale dove appunto noi stessi riconosciamo il nostro essere individui nel momento in cui ci relazioniamo anche con gli altri, e di conseguenza si creano tutti dei giochi sempre relazione. Adesso sono ridondante con questo termine, però secondo me è importante parlarne perché in questo modo noi capiamo quali sono i nostri punti di forza, e valorizzando i nostri punti di forza chiaramente non andremo a spendere tutte queste energie andando a colmare e a cercare di arrivare a un livello standard dove alla fine nessuno ha la propria personalità. E, infatti mi piaceva, io ho preparato un po' di cose da leggervi. E proprio su questo ho trovato interessante questo libro che si chiama Pedagogia didattica per la, per realizzare l'inclusione di Fabio Dovigo, e lui spiega in pratica come la conoscenza in questo senso viene portata avanti secondo un'economia fordista portata avanti appunto dalla cultura dalla cultura fascista, e dice dice: come abbiamo osservato, benché le scuole fossero inizialmente concepite secondo un modello fordista di produzione, gli insegnanti sono sempre stati in grado di preservare una condizione professionale diversa. Tuttavia la necessità di omogeneizzare le attività degli insegnanti nella società industriale era limitata, in quanto l'insegnamento era fondato su una formula molto semplice, fatta essenzialmente di lezioni, lavoro individuale e un'interazione basata su domande e risposte e una valutazione molto simile a una rendicontazione. Fermandomi soltanto su questo, noi possiamo ben vedere, ma anche voi appunto potete darmi risposta, vediamo come la struttura educativa italiana soprattutto è basata su questo, cioè anche andando a dare queste valutazioni quantitative piuttosto che qualitative, noi andiamo sempre a dare una, come posso dire, andiamo a dare un focus più a quello, cioè la quantità di informazioni che noi riceviamo piuttosto che la qualità. No? E un'altra cosa a cui noi non pensiamo, e qua vi cito invece Galimberti, è la pluralità di intelligenze, che è sempre legata insomma a quella cosa che si chiama intelligenza anche emotiva, che non che è sta alla base alla fine di quella che è l'educazione all'affettività. E dice: l'intelligenza non si dà in una forma unica, ma in una moltitudine di forme, la maggior parte delle quali trova nelle nostre scuole, nei centri di diagnosi psicologica e nel giudizio della gente la sua mortificazione. È noto, ad esempio, che i superdotati vanno male a scuola perché il modello di intelligenza che i professori e i programmi ministeriali hanno in mente, a cui vengono misurati i rendimenti scolastici, è costituita sulla categoria della flessibilità, che nel caso dell'intelligenza equivale alla mediocrità. Flessibile è infatti quell'intelligenza che, versata in ogni direzione, non presenta una particolare inclinazione per nulla e perciò è in grado di spiegarsi a ventaglio su tutto, perché nulla la inclina in modo decisivo. E dice nei suoi molteplici studi sull'argomento, poi Gardner mostra che non c'è un'intelligenza generica, ma quella su cui di solito si applica la misurazione della scuola, ma forme così diverse fra loro che non è possibile unificarle e misurarle in modo uniforme. Ogni forma di intelligenza, infatti, è percorsa dal genio, che non è una prerogativa solo di Leonardo da Vinci, ma di tutte le menti che sempre sono inclinate in una certa direzione, a partire dalla quale scaturisce per ognuno la sua particolare ed esclusiva visione del mondo. Io ho trovato, tempo fa mi è successo appunto che a scuola, ovviamente io sono un'insegnante di arte, mi è capitato di chiedere: secondo voi che cos'è il genio? E nessuno mi ha risposto che è qualcosa che c'è dentro di noi, qualcosa che c'è dentro di noi, un potenziale che dovrebbe essere stimolato a portare avanti, un po' sulla linea dell'educazione di Bell Hooks, di Freire. E alla fine, se noi l'educazione all'affettività alla fine parte dalla scuola e poi subentra anche la famiglia, e quindi se noi non andiamo a capire come dare valore al sentimento, al modo in cui noi stessi guardiamo le cose, ognuno di noi ha una diversità, andremo a risolvere tutte queste problematiche e soprattutto andremo a vivere molto meglio, perché ovviamente le nostre energie non le andremo a sprecare in questo modo. E in realtà ho preparato altre due cose da leggervi, ragazze, che wow. Ho tempo. Hai tempo, assolutamente. Ho tempo. Allora, mi piaceva anche leggervi questo. Questa è una parte della mia tesi, e in realtà c'è dentro Belotti e Margaret Mead, cioè li ho messi insieme, e dice: le radici della nostra individualità sono profonde, ci sfuggono perché non ci appartengono, altri le hanno coltivate per noi a nostra insaputa. La bambina che a 4 anni contempla estatica la sua figura allo specchio è già condizionata a questa contemplazione dai 4 anni precedenti, più 9 mesi in cui è stata attesa e durante i quali si approvano gli strumenti atti a fare di lei una femmina il più possibile a tutte le altre. La cultura alla quale apparteniamo, come in ogni altra cultura, si serve di tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere dagli individui e dei sessi il comportamento più adeguato ai valori che le preme conservare e trasmettere. Ogni donna che si propone di parlare di sé, della sua collocazione, della propria cultura, può raccontare la sua storia di bambina, di adolescente, di ragazza e la storia di ciò che ritiene di aver subito a causa del suo sesso, ma per quanto indietro spinga il suo ricordo, scoprirà che c'è sempre una zona oscura, la primissima infanzia, sulla quale non sa dire niente, perché in quel periodo non c'è una lotta cosciente contro l'oppressione. Ma Andrea, quindi sì, questa è Belotti, giusto? Quella che è sì, scritto dalla parte delle bambine. Dalla parte delle bambine, esatto. Ma è un estratto da quel libro? È un estratto da quel libro che ho unito a questo estratto di Margaret Mead, dove ci suggerisce che tutte le discussioni sullo stato delle donne, sul carattere, sul temperamento, sulla sottomissione, sull'emancipazione fanno perdere di vista il fatto fondamentale, e cioè che le parti dei due sessi sono concepite dalla trama culturale che sta alla base dei rapporti umani, e che il bambino che cresce è tratto altrettanto inesorabilmente come la bambina secondo un canone particolare ben definito, perché ovviamente l'idea è maschi e femmine sono assoggettati a questo tipo di educazione, cioè l'idea che noi nasciamo e viviamo secondo aspettative di altri e non secondo le nostre personalità, stanno alla base ovviamente di come ci educano. Certo, perché noi non nasciamo così. Direi anche che in termini sociologici mi viene in mente un concetto che è quello di socializzazione, che però non è neanche una cosa, un concetto che riconduce a una passività delle persone e dei bambini. È vero che quando si è molto piccoli forse è un processo più passivo che attivo, ciò nonostante comunque il bambino fa suoi, come hai detto bene, delle dei caratteri, dei comportamenti, ecco. Anche inerente appunto alla questione dell'educazione all'affettività, fa suoi anche molto più facilmente poi alcune emozioni e conseguentemente alcune reazioni, e quindi assolutamente è un percorso attivo questo, non così passivo come forse ci immaginiamo a volte. Esatto, nel senso che noi non ci rendiamo conto che sembra che l'educazione sia soltanto appunto questa unilaterale di passaggio di informazione che viene depositata all'interno dell'individuo senza mai considerare tutta la trama culturale nella quale siamo inseriti. Di conseguenza, se noi andiamo per esempio, andiamo a vedere anche i manuali, no? Se noi andiamo a vedere per esempio i manuali dell'epoca fascista, che è quella più emblematica su questo, che proprio crea i testi per ricreare questa ideologia all'interno delle persone e crescere quindi la gioventù fascista in un certo modo, alla fine hanno reiterato questo metodo cercando di non far emergere le singole personalità. Certo. No? E di conseguenza c'è una frustrazione latente da parte di tutti, perché alla fine dal ragazzo che non può fare il ballerino perché e quindi farà l'operaio perché la società non lo vuole ballerino, e la bambina che crescerà e magari voleva fare la camionista vivrà frustrata tutta la vita, perché la società non la vedeva in questo modo, lei ha adottato degli altri canoni. Poi penso e alla anche... fine... Scusa, no, pensavo no, soltanto... No, anche... solo che sento il rimbombo di me stessa, quindi... Urca, questo è un problema. Prova hai la radio accesa? No. Ok, allora non so che cosa possa essere. ma se parlo così No, va così bene. sì. Ok, perfetto. No, mi veniva in mente una cosa che forse adesso mi è sfuggita. Oddio, sì, mi è proprio sfuggita. Vabbè, Andrea, È andata, scusami. ma È ci andata, tornerà. Più mi insisti tornerà. adesso, meno arriva. Esatto, scusa. Ah, io volevo anche fare. Vabbè, Oddio, mi arriverà. senti? Sì, ti Ok, sento. fantastico. No, io volevo anche fare un passo indietro perché sono felicissima che tu mi abbia citato Galimberti. Perché te tempo fa mi appassionai molto ai suoi video su YouTube, sui discorsi e soprattutto all'ambito del nichilismo, che secondo me è una cosa che si collega molto al concetto di cui parlavi prima, cioè alla preferenza che ormai abbiamo della quantità e non della qualità di nozioni che ci vengono inculcate anche e soprattutto nelle scuole, ma anche dal sistema, in realtà, fin da quando nasciamo. Esatto. E stavo pensando anche che, cioè, mi viene da dire che c'è anche molto di fascista in questo, cioè nel È proprio nichilismo, questo che esatto, nel volevo nichilismo, portarvi, esatto, perché nell'annullamento delle della emozioni, personalità, esatto. certo, dei sentimenti, ma anche proprio della tua stessa personalità e appunto, come diceva Gioia prima, del diventare depositi di nozioni che semplicemente ci vengono fornite senza effettivamente calibrarle, senza aver tempo né voglia, perché appunto siamo frustrati, di effettivamente ragionarci su. E appunto possiamo dire che è una vera e propria censura di ciò che proviamo, che ci vuole semplicemente macchine, e questo concetto va in totale contrapposizione con la cura dei corpi, con ciò che invece, con la tutela delle personalità, delle emozioni, certo anche dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, che è un po' ciò che rivendichiamo noi. Esatto, è esattamente questo, perché alla fine se noi ci pensiamo questo tipo di struttura, poi va a ripresentarsi in qualsiasi ambito della nostra vita, a partire da quello sessuale, a partire dal rapporto col nostro corpo, a partire, insomma, noi, infatti tendenzialmente quando vai a fare un percorso magari di psicanalisi anche, molte volte quando inizia a star meglio, quando inizi a coscientizzarti, a capire che tu sei un singolo individuo e tu hai la tua testa, la tua personalità, la tua indole e la tua libertà e di conseguenza stai molto meglio quando inizi a sbatterti nelle palle di quello che vogliono gli altri e inizi a vivere secondo i tuoi dettami fondamentalmente. Sempre nel limite del rispetto reciproco, ma alla fine se si sta bene con se stessi, il rispetto reciproco c'è sempre. E lo vediamo perché non c'è bisogno di andare a sminuire gli altri, perché poi tutto questo crea dei meccanismi a catena. E se Certo. non si educano le persone alla riflessione su se stesse, alla riflessione anche i rapporti con gli altri, alla riflessione sul sentimento, sul perché si prova una determinata cosa. Ma anzi si deve tutto censurare, tenere in sardina, prima o poi esplodi e poi se vedi qualcuno che vive in realtà in quel modo o cerca di rivendicare determinate libertà, a te sembra assurdo. E lo ostacoli anche, senza, cioè, perché alla fine molto è quello che sta succedendo anche adesso, Eh che sì. non, cioè, se ci pensiamo. E comunque, ragazzi, io volevo leggervi l'ultimissimissima cosa che io l'ho trovata interessante ed è la Genesi della Bibbia. Ops, ma Andre, ma dici che meglio mettere una canzone di stacco e di pausa o è meglio seguire il flusso, giusto per capire anche quanto devi leggere? No, è proprio breve, A però se volete posto. parlarne poi come No, volete no, voi, no, no, allora ragazzi, ti ditemi voi. ascoltiamo subito. Dai, allora ve lo dico. E dice: Or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. Ed esso disse alla donna: Come Dio va detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino non possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto, ma è Dio che sa nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Cioè, la mela era la mela della conoscenza, e a noi la tengono censurata, siamo noi che l'abbiamo catturata, l'abbiamo presa, l'abbiamo mangiata, e da quel momento noi creiamo coscienza e capiamo che noi siamo esseri umani grazie alla nostra personalità, e questa cosa non viene passata nella religione. Cavolo, adesso comunque mi hai fatto tornare più o meno in mente quello che volevo dire prima. Okay. Che si riallaccia quindi al discorso sulla socializzazione, ovvero anche a un'educazione patriarcale. Quello che volevo dire è che tutto ciò, quindi questa socializzazione al patriarcato e quindi a ruoli di genere definiti, eccetera, è una cosa che a tal punto ci condiziona, come dice e racconta molto bene anche Belotti nel suo libro, ci condiziona a tal punto che modifica anche i nostri gusti, il nostro piacere e il nostro, poi di conseguenza, anche vocabolario. Perché sì. La questione della bambina che non può fare il meccanico o la camionista, cioè, parte anche da questo, no? Non si matura una bambina, magari non matura neanche il desiderio di fare dei mestieri o di avere dei ruoli diversi da quelli che sono stati, non, ovviamente non sono prescritti, ma che vengono passati come tali, no? Per cui la bambina trova più spesso a desiderare di fare la ballerina che fare altri mestieri o ad avere altre aspirazioni, e lo stesso sì. Poi il bambino. Che non sarà a tal punto anche lui condizionato da non voler desiderare di fare il ballerino o di fare qualsiasi altra cosa, ma vorrà fare il calciatore. Quindi ci sono proprio anche dei modelli a cui poi questa socializzazione rimanda. Esatto, non si rimane bloccati, anche losati in strutture che poi appunto non ci appartengono e frustrano. Fondamentalmente è così, anche perché poi la struttura scolastica ci dà dentro anche in questo, devo certo. Dirlo. E soprattutto, ecco, quello che volevo dire è che poi qua si aprirebbe un altro enorme argomento, che è quello del controllo linguistico, che noi stiamo abbandonando sempre di più, e invece bisognerebbe un attimo riprendere, perché soprattutto in questo momento in cui, cioè, si sta riscontrando questo all'interno delle scuole, c'è, cioè, un grandissimo problema di controllo verbale anche a livello sessista e razzista, perché, cioè, queste sono le due grandi problematiche. E cosa succede fondamentalmente in questo momento, che loro non si sono visti, non hanno tolto il filtro del parlarsi a face to face, niente, adesso loro sbroccano proprio sui social e anche tra di loro sui messaggi, e non c'è una grandissima problematica, perché tutta quella retorica che veniva portata avanti da anni adesso sta emergendo anche nei più piccoli. Scusami, se ho capito bene, stai dicendo che nel distanziamento fisico e quindi in queste interazioni che avvengono quasi ormai soprattutto mediate da uno schermo, c'è un inasprimento della violenza verbale, questo? No. C'è un'intensificazione della violenza verbale. Ok. Questo, nel senso che, cioè, si permettono, io vi dico questa cosa, c'è stato un ragazzo che ha scritto una ragazza, torna in cucina puttana, a 12 anni. Ottimo. E dici che non se lo sarebbe mai permesso, okay, se fosse stata davanti a lei, davanti a lui. Esatto, è quello, perché poi quando tu vai a parlargli, a dirgli, ma ti rendi conto del peso o sei tu a dirlo, si prendono, si spaventano. E quindi, cioè, bisognerebbe anche ritornare un attimo a fare, anche nell'educazione all'affettività, capire il peso delle parole, capire cosa suscitano e cosa possono causare. Ci vorrebbe educazione all'affettività in versione digital, cioè nel mondo digitale. Cioè, è che è veramente difficile parlarne all'interno delle scuole. C'è un molto ostacolo, ecco. Per questo abbiamo questo. Le compagne della rete studenti Milano. Che sono venite anche qui in Brianza, ragazzi. Confermiamo, c'era assolutamente bisogno, dobbiamo sempre parlarne noi. Allora, Andre, io ti ringrazio e ti ringraziamo. Grazie, e grazie ci vediamo prestissimo e ci risintonizzeremo prestissimo. Yes. Va bene, va bene. Grazie buon 8 mille. Marzo, ragazze. Cavolo, yeah. Sì. Ciao. Ci vediamo domani. Ci sentiamo domani. Ciao. Certo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, quindi adesso assolutamente sarà molto nazi. Anche se questo termine ovviamente non è appropriato, però per farvi un po', per darvi un po' l'idea, quindi decido di mettere due canzoni. Bella. E non vi dirò i titoli, ovviamente. Misteriosa. Da da da.

sentiamo un po' d'aria. Tanto facciamo le musichette sottofondo. Esatto. Tipo quelle d'ascensore. Quella dei taxi. Oppure sala quella d'attesa del medico. Dario! Pronto? Eccoci! Ciao Dario! Ciao Dario! Benvenuto alle Ribelli! Grazie! Allora, di cosa ci parli oggi? Allora, io volevo parlare un po' del tema, della tematica della cura dei corpi, diciamo in ambito, partendo dall'istruzione, perché insomma, cercare di legare un po' anche questo alla scuola. E volevo partire da una parola che è sacrificio, che secondo me è un qualcosa che abbiamo sentito molto in questi tempi pandemici, perché è un po' stato un po' il fil rouge che ha accompagnato un po' tutti i mestieri, anche dal punto di vista scolastico. Per esempio, sacrificio è stato un po', per esempio, quello dell'insegnante, che dovevano sicuramente sacrificarsi per cercare in ogni modo di, cioè, essendo abbandonati e abbandonati a loro stessi, dovevano sacrificare la loro, diciamo, la loro integrità in un qualche modo, per cercare di arrabattare un modo per tenere in contatto gli studenti e le studentesse, però appunto senza avere un aiuto che fosse esterno e quindi che fosse, diciamo, più statale, quindi comprensivo, e che potesse in generale migliorare la vita e la condizione soprattutto scolastica in questi tempi appunto di emergenza sanitaria. E anche perché la scuola è diciamo un po' quella cosa che toglie un ragazzo, una ragazza dalla famiglia, che spesse volte è lo schema un qualcosa che riproduce lo schema patriarcale per eccellenza, anche spesso è intrisa di violenza misogina e sessista, e quindi se qualcuna non esce da quell'habitat intriso di questo tipo di dinamiche, poi che esce, nel senso va a scuola in un contesto nuovo in cui non conosce ancora altri tipi di, magari, altri modi di relazionarsi, anche altri modi di pensare, senza questa appunto uscita da un habitat che appunto comporta tutta questa serie di cose, si va a creare un problema serio proprio dal punto di vista formativo, proprio perché magari una persona non avendo avuto modo di conoscere abbastanza un modo diverso di vivere le relazioni, poi va a replicare quelli che sono degli atteggiamenti dei costrutti sicuramente sbagliati e dannosi dal punto di vista fisico ma anche mentale. Vi dico perché, poi, per esempio, sempre parlando di corsi, con la didattica a distanza abbiamo assistito a una invisibilizzazione dei corsi, perché appunto essendo quasi la scuola stata per la maggior parte del tempo in didattica a distanza, quindi le relazioni di insegnamento e di condivisione dei saperi, che si può chiamare quella che è la scuola oggi, sono state sempre mediate da uno schermo, e quindi il fatto di avere questo tipo di scuola ha alimentato ancora di più quel tipo di istruzione fordista di cui parlavamo anche prima, che parlavate anche prima con Andrea. E quindi, insomma, la questione è che con questa scuola, tra virgolette, che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi pandemici, abbiamo avuto due ordini di problemi dal punto di vista, dal punto di vista della storia dei corpi, che è mancata perché appunto il corpo è stato svalutato, perché appunto non c'è stata la possibilità di avere delle relazioni fisiche con delle persone reali, ma anche dal punto di vista mentale, perché avere uno stress continuo a proposito sia della scuola sia di schemi relazionali che si sono potuti vivere o meno, quindi all'interno della famiglia, o quello che non c'è stato all'interno dello schema relazionale della scuola, che sicuramente ha causato dei problemi che probabilmente non saranno quelli più trattati, anche magari quando si parlerà a livello anche più istituzionale o pedagogico, di qual è stato il reale problema della scuola, anche perché adesso quando si parla di istruzione, di quello che è mancato, no, si parlava di questi ristori scolastici come se il problema della scuola fosse, cioè il problema della didattica a distanza fosse stato semplicemente le competenze diciamo del programma ministeriale che non sono state assunte, piuttosto che in realtà tutta un'altra serie di problematiche, tra cui appunto una sofferenza magari psicologica, fisica, ma anche relazionale soprattutto. Quindi insomma questo era un po' il tema di cui volevo parlare, cioè del fatto di come questa didattica a distanza abbia creato un vuoto, proprio un vuoto di come concepiamo la relazione con un altro essere fisico, con un'altra persona che ci sta davanti, e che quindi noi dobbiamo avere un certo tipo di comportamento che sia sicuramente rispettoso, eccetera, e con appunto questa invisibilizzazione del corpo è andato sicuramente a mancare. E dal ministero in generale, dalla politica, dal sentire comune, quello che ci viene detto è il sacrificio, contrapposto alla tutela, che invece è la cosa che dovrebbe esserci quotidianamente all'interno di un luogo di formazione e di socialità come la scuola. Grazie mille Dario, è stato molto piacevole. Non so se si è capito che era un po'... sì, no, tranquilli. Certo, ma tra l'altro io volevo chiederti una cosa, Dario, tu come ti stai vivendo questa situazione? Cioè, anche questa assenza di corpi di cui parlavi, in che modo ha delle influenza la tua quotidianità? Cioè anche sicuramente in relazione alla scuola, ma anche guardando all'aspetto più della socialità, perché a scuola anche questo, cioè si cresce, si impara tantissimo anche socializzando, quindi interagendo con i propri coetanei. Sì, la mancanza di appunto di fisici, cioè nel senso, la mancanza di corpi influisce nel senso di avere un po' diffidenza forse da un certo punto di vista, ma anche il notare dei miei atteggiamenti che forse in questo senso è stato tra virgolette un bene questa cosa, perché magari noto dei miei atteggiamenti che, cioè, mi rendo molto più tra virgolette insicuro con degli atteggiamenti che forse non dovrei avere, forse dovrei avere, cioè noto una capacità relazionale proprio più complessa anche dal punto di vista per esempio di so che io devo esternare di me stesso verso anche persone magari che mi sono vicine o care, però proprio anche la difficoltà un po' forse di esternare ciò che io vivo dentro di me, ma anche questa problematica di atteggiamenti miei che io vedo però non so se vanno bene, se magari possono dar fastidio, eccetera, perché appunto avendo perso un po' di praticità con la relazione fisica, avere, non so, insomma, un po' questi sono un po' i problemi che mi affliggono grazie alla DAD. Ma e quindi appunto, cioè, parlavi di, cioè, del fatto che tutto questo, chiaramente questa assenza di corpi anche su di te influisce e ti costringe un po' a fare anche i conti con dei comportamenti che ti sei reso conto non sono quelli più... cioè consoni, ma sì, o magari più che consoni non ti soddisfano. Se ti va, io te lo chiedo, la butto lì, se ti va di condividerli con noi senza che tu ti senta obbligato ad esporti di fronte a una miriade di ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano da tutto l'iperspazio anche dal futuro e anche dal futuro solo se te la senti. No, sì, no, non è un problema. La questione è che, non so come dire, spesso sono cose che, cioè, che non sono, cioè, non so come dire, secondo me non, cioè, dire così quali sono questi atteggiamenti, secondo me non ha troppo senso, anche perché, primo, non me li ricordo, nel senso che sono un qualcosa che viene un po' al momento. Cioè, e che quindi poi sono episodi. Esatto, esattamente, quindi dopo una breve poi magari riflessione nel momento stesso, poi sbagliando probabilmente accantono un po' l'idea, lasciandola comunque qualcosa di tra virgolette remoto, quindi insomma, cioè, non so come dire, non non saprei raccontare degli episodi specifici. Ok, va bene. Perché appunto sono cose che succedono un po'. Non ti preoccupare. Io devo dire che mi sono, cioè, in parte condivido un po' quello che ha detto Dario, perché anche a me lo stress che mi ha causato questa situazione non è stato poco. Cioè, anch'io spesso e volentieri mi sono ritrovata con atteggiamenti anche molto nervosi, aggressivi, aggressivi, vabbè, insomma. Ma va bene anche aggressivi, ma infatti, ma parlare di salute mentale, tra l'altro, è importantissimo, e soprattutto in tempi di pandemia e di didattica a distanza. Ma per questo anch'io spesso e volentieri mi sono ritrovata a fermarmi un attimo e riflettere e pensare: ma questo non sono io, cioè io non sono così nervosa, non sono così frenetica nel senso negativo della parola. E il fatto di non... di aver perso un po' il gusto dell'interazione sociale, non il gusto, ma l'abitudine più che altro dell'interazione sociale, ha fatto sì che davvero anch'io mi trovassi anche abbastanza un po' spaesata in questo senso, e davvero abbia in parte, non del tutto, però in parte modificato il mio modo di relazionarmi. E questa non la chiamo tutela dei corpi, assolutamente. Certo, anche perché poi bisogna anche capire in che modo avvengono questi cambiamenti e se fanno bene, a chi fanno bene, come, e se magari non c'è qualcos'altro che faccia star meglio se stessi e gli altri. Anche perché poi in tutto questo si ricollega anche il discorso, come avete ben detto, della salute mentale anche nel supporto, no? Per cui non sempre una persona ha anche gli strumenti per fare i conti con se stesso o con se stessa, e quindi poi si rischia anche di prendere delle strade che magari non sono neanche le migliori. In pandemia poi, certo. Soprattutto durante il primo periodo di lockdown, in cui davvero non hai... cioè non avevi praticamente interazioni se non digitali, il che è una cosa che, cioè, onestamente mi sta molto scomoda, perché sono sempre stata una persona che ha bisogno di socialità, di confronto, soprattutto a scuola. A me piace tantissimo dialogare, confrontarmi, soprattutto nell'ambito scolastico, e questa cosa mi è stata ovviamente negata, perché la didattica a distanza sembra di guardare un film più che fare, certo, una lezione. Anche perché adesso ormai bisogna, cioè già da un bel po' di tempo, e non solo adesso, si sa che questo, cioè si riconosce che questa non è, la pandemia non è una cosa che passerà domani, ma ormai è qualcosa di strutturale, e quindi affrontarla in ottica emergenziale continuerà semplicemente a peggiorare la situazione di molti giovani e di tutte le persone, anziani inclusi, che anche loro vivono una situazione di abbandono. Va bene. Direi che dobbiamo anche continuare per raggiungere un po' il termine di questa puntata. Quindi, Dario, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie, Riodino. Grazie mille, Dario. Grazie a voi. E ti auguriamo buona serata. Ciao, Dario. Grazie. Ciao, Dario. Grazie mille. Ciao. Ok, allora qui ascoltiamo, come ci siamo un po' organizzate a giornate, un paio di canzoni e poi lasciamo la parola ad Eleonora. Grazie, a dopo. Quindi adesso ascoltiamo... no, non ve lo dico. Buon ascolto. What's up, it's Pickles. We have a message. Hey, I'm calling you back. Ooh, she's been a bitch tonight. And by bitch, I mean this rain. No cab, nowhere. So I had to put on the wigs and the heels and the lashes and the ear and take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass. So then I get to the club, looking like a drowned, harassed rat, and am greeted, not by Miss Rose at the door, but our friend, Johnny 5-0. Yes, honey, the NYPD shut down the party. So no fee for me. I don't even know what's the key. So I hope you're up, girl, because we are all coming over. Lock the doors, lower the blinds, fire up the smoke machine, and put on your heels, because I know exactly what let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Tight. Let's have a kiki. Motherfucker. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Dive, turn, work. Let's have a kiki. We're gonna serve. And work. And turn. And honey. For calming all your nerves, we're spilling tea and dishing just desserts one may deserve. And though the sun is rising, few may choose to leave. So shade that lid and we'll all bid adieu to your ennui. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Tight. Let's have a kiki. Motherfucker. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Die. Turn. Work. Let's have a kiki. We're gonna serve. And work. And turn. And honey. Wonderful kiki. This kiki is marvelous. Bene, ci avete colto impreparate perché stavamo cazzeggiando e quindi nessuno aveva le cuffie o era vicino ai microfoni, quindi assolutamente no. Proprio sgamate in pieno, magari anche no, perché solo una frazione eravate, di secondo, esatto. Però ci sta sempre a raccontare cosa succede dietro le quinte, così. Va bene, allora adesso stiamo raggiungendo il termine di questo pomeriggio inoltrato e quindi lascio la parola ad Eleonora, che potrà presentarsi e ci parlerà un po' anche lei dei temi, delle tematiche che fino ad ora sono state sollevate. Allora mi ruoto il microfono in questa direzione e prima di entrare nel vivo dell'argomento mi piaceva ricordare che tutte le puntate delle Ribelli insieme a tutte le puntate delle trasmissioni che sono che vanno in onda e quindi che vivono su questa radio sono fruibili. Si può andare sul sito di, come ha detto prima Gioia, ma lo ripetiamo, sul sito di ZAM che poi vi diremo se non lo vedo, ma poi c'è anche su archive.org che è un mega portale dove si trovano tantissimi contenuti liberi, cioè fruibili liberamente, e qui ci sono tutti i podcast della radio, e che credo che sia un punto molto una delle attività molto interessanti di ZAM. ZAM fa parecchie attività e questa della radio è, diciamo, forse una delle più coinvolgenti, perché riesce a intercettare appunto soggetti vari, come dimostra questa collaborazione con la rete delle e degli studenti. Oggi, per chiudere questa puntata, siamo partite parlando di potere in termini anche molto complessi dal punto di vista teorico. Abbiamo chiamato in campo Foucault, abbiamo chiamato in campo l'intersezionalità, abbiamo chiamato in campo forme di potere che si esercitano attraverso una serie di dispositivi. Il linguaggio è uno di questi. Per parlare di... No, è partita la stampante? Perché? Sì, è partita. ho detto intersezionalità ed è partita la stampante. Non ma io non ho parole, queste sono proprio le questioni ultime esistenziali a cui non avremo mai risposto. Mai, va bene. E allora, di cosa vorrei parlarvi? Vorrei parlarvi di aborto e di diritti sessuali. Partendo dalla Polonia, passando per le Marche, l'Umbria e arrivando qui in Lombardia, perché credo che abbia un forte legame con quanto è l'obiettivo di questo ciclo di puntate, cioè parlare dei nuovi fascismi o anche di nuovi significati dell'antifascismo, perché quello che sta succedendo in Polonia è, diciamo, forse una delle manifestazioni più classiche del fascismo, ovvero l'utilizzo dello Stato per imporre dei comportamenti. Ci sono altri modi, come abbiamo visto, per imporre dei comportamenti, modi che possono essere che possono non passare dalle leggi. Per esempio, uno dei modi per imporre o per disincentivare un comportamento è quello di abbandonare o di fare in modo che i servizi sociosanitari funzionino in un certo modo. Quando parliamo di scuola, stiamo parlando di un'istituzione e stiamo parlando di un'istituzione che eroga un servizio, in particolare un servizio educativo. Organizzare i servizi educativi in un modo piuttosto che in un altro è un esercizio di potere, anche quello, no? E in Polonia però l'esercizio del potere in un senso che contrasta il nostro senso di libertà, che è il nostro ha a che fare con l'autodeterminazione, con la possibilità di autodeterminarsi, lì sta passando attraverso leggi molto restrittive. E in particolare il partito che sta governando adesso la Polonia, che è il PiS, Legge e Giustizia, e che è foraggiato e finanziato da organizzazioni di ultradestra e di chiara matrice di fondamentalista cattolica, sono le stesse che hanno organizzato, per intenderci, il congresso di Verona. Questo partito al potere aveva già provato qualche anno fa a far passare delle leggi restrittive in materia di educazione sessuale e di aborto, c'era parzialmente riuscito. Adesso cosa è successo? Che il Corte Costituzionale polacca, quindi un organo che in teoria dovrebbe essere, in base alla divisione dei poteri che vige nelle democrazie, dovrebbe essere indipendente, invece quest'organo ha promulgato una sentenza che è entrata in vigore il 27 gennaio, che stabilisce che l'aborto non è possibile neanche in caso di malformazioni fetali gravi, motivo che costituiva prima tipo il 97% degli aborti che erano legalmente fatti. L'altro motivo che rimane valido è quello di stupro, incesto o pericolo di vita per la madre. Questo può sembrarci molto lontano, può sembrarci che la Polonia è un paese appunto cattolico, che la Polonia è un paese lontano. In realtà quello che le attiviste e gli attivisti, ma parliamo più di attiviste perché sono le femministe che stanno guidando un movimento che è diventato di massa in questo momento in Polonia, dicono: attenzione, perché quello che sta succedendo qui potrebbe succedere anche da voi. E perché potrebbe succedere anche da voi? Perché intanto mette in discussione uno dei un patto che è quello fondativo dell'Unione Europea. L'Unione Europea c'ha delle regole E queste regole sono scritte tra l'altro in una serie di trattati, ma in uno in particolare che è il Trattato dell'Unione Europea, e l'articolo 7 prevede che non possano aderire, o comunque che gli stati che aderiscono all'Unione Europea devono garantire un certo standard rispetto a diritti umani, diritto alla salute, libertà civili, stato di diritto. E quindi la Polonia, le polacche ci stanno dicendo attenzione, perché se succede che su questi diritti, che in teoria dovrebbero essere validi perché è un po' la nostra, questo trattato sono le regole che ci siamo dati in comune, no? Se si decide che queste regole non sono più valide, potrebbe succedere oggi a me, domani a te, nel senso che se queste sono le regole dobbiamo farle rispettare. Il cavillo, diciamo il punto un po' critico, è che volutamente, quando è stato fatto questo trattato, il peso dei rapporti di forza politici ha fatto sì che il diritto all'aborto in effetti non è inserito tra i diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi si gioca tutto un po' sul tirare la coperta da una parte o dall'altra. Cioè i polacchi, il governo polacco che dice aborto è una materia di stati nazionali, e invece la maggioranza degli eurodeputati e degli eurodeputati che dice no, perché comunque va bene che l'aborto è una materia degli, però tu mi devi garantire il diritto alla salute, il rispetto dei diritti umani, l'indipendenza della magistratura, eccetera. E quindi a me ha molto colpito, devo dire, che le attiviste parlassero a noi in quanto europee. È una cosa, cioè, mi sembra interessante, perché questa dimensione transnazionale europea in realtà non la consideriamo molto a livello conscio, però poi spesso usiamo i dati dell'Unione Europea, usiamo tutta una serie di dispositivi appunto che ci consentono di pensarci europei ed europee. E quindi è interessante parlare di Polonia, perché quello che ha intenzione di fare Ordo Iuris, cioè un nome che solo a dirlo ti fa venire la pelle d'oca, che è un'organizzazione ultracattolica e fondamentalista del tipo che abbiamo appena descritto, che è una di quelle che ha in qualche modo cerca di dare corpo a un documento, un progetto, una programmazione che si chiama Agenda Europa. Possiamo vederla in azione, quel programma possiamo vederlo in azione anche qua in Italia, e qui arriviamo all'Umbria, che sappiamo è governata da qualche tempo da una giunta leghista, che l'anno scorso ha in qualche modo innescato una dinamica politica che ha fatto sì che il Ministero della Salute italiano promulgasse delle nuove linee di indirizzo sull'aborto farmacologico, dandoci la possibilità di praticare l'aborto farmacologico fino alla nona settimana, prima era sette, di farlo, udite udite, non solo più in ospedale ma anche in consultorio. Tenete conto che in altri paesi come Francia e Inghilterra l'aborto farmacologico si fa in telemedicina. Vuol dire che mi ha chiesto Gioia cosa vuol dire, però siccome lo dicevo fuori dal microfono, giustamente dice che cacchio è, cosa vuol dire in telemedicina? Vuol dire che io per esempio devo abortire, voglio abortire, lo voglio fare con metodo farmacologico, non devo andare né in ospedale né in consultorio, ma mando alle operatrici l'esame che certifica che sono incinta, e eventualmente l'ecografia che certifica che la gravidanza non è extrauterina. A questo punto mi viene mandato a casa il kit dall'istituzione, cioè dall'ospedale, mi mandano a casa il mifepristone e il misoprostolo, che sono i due farmaci che servono a provocare il distacco dell'embrione e poi ad espellerlo. E il misoprostolo è sicuro, cioè non ha controindicazioni, no? E quindi l'aborto avviene in casa, sotto monitoraggio, nel senso che poi ci sono ovviamente dei segnali che dicono che qualcosa non sta andando. Uno di questi è la febbre, uno di questi è sentirsi spossate, una di queste è un sanguinamento oltre un certo limite. Sono tutti comunque segnali che riconosciuti possono essere, insomma, possono a quel punto portarti a provvedere, quindi a quel punto vai in pronto soccorso. Scusa se ti interrompo, sì. Ma è interessante anche che tu abbia citato la telemedicina, perché nel Recovery Fund, nella sezione sanità, sono stanziati tipo la maggior parte, in tutto sono 40 miliardi alla sanità, ma tipo una cosa come 37 sono stanziati in questa telemedicina, che non si capiva cosa fosse, era un enorme punto di domanda. Ma questa cosa che hai detto è importantissima, perché mentre abbiamo paesi in cui la telemedicina anche rispetto all'aborto sta andando avanti, abbiamo nel Recovery Fund questo capitolo di spesa, ma la domanda è: lo faranno per l'aborto? Perché? Perché l'aborto è l'ultima delle questioni di cui si occupa chi gestisce la sanità, purtroppo. E questa cosa ha a che fare con quanto abbiamo detto all'inizio sul binarismo, no? Perché ovviamente il terreno della sessualità e della riproduzione è uno di quelli dove più facilmente e da tempo più antico si consolida, si scrive, si definisce il binarismo di genere, e l'aborto è ormai l'ultima frontiera, nel senso che è ancora quella zona, mentre un po' la sessualità in senso di diritto al piacere, autodeterminazione, non coincidenza fra sessualità e riproduzione, si è molto liberata rispetto a solo 50 anni fa, l'aborto rimane sicuramente nel nostro paese l'indicibile, la vergogna, lo stigma assoluto, ovvero quella zona d'ombra in cui il dispositivo di potere, il dispositivo del binarismo di genere lavora ancora al 100%. E tant'è vero che le cose non funzionano, però le donne non le denunciano, non fanno nulla di apertamente conflittuale, provocatorio a livello di massa, ma anche a livello di denuncia in tribunale, mentre per esempio sulla procreazione medicalmente assistita, dove è stata fatta una legge molto restrittiva nel 2000 nel 2004, quella legge è stata cambiata a colpi di sentenza in tribunale, perché c'erano le donne che denunciavano e le coppie che denunciavano. Invece sull'aborto non si riesce a fare. Comunque, chiusa parentesi, la telemedicina potrebbe essere, in realtà adesso parlando come militante, come femminista, io sono tra quelle che si sta molto molto attivando, sta molto spingendo perché passi l'idea. Tra l'altro faccio un annuncio stampa nella rete Pro Choice, non lo sa nessuno, ma lo faremo nei prossimi giorni, metteremo tutto online. Faremo in telemedicina, ed è un'iniziativa tutta autogestita, il certificato per IVG, il certificato che attesta la volontà di abortire, quindi con il quale si può, che spesso viene negato anche dai medici di base, che dicono: no, io sono obiettore di coscienza, e sappiamo che non lo possono fare, perché in realtà la legge 194 l'obiezione di coscienza la prevede solo nel corso dell'intervento dell'aborto. Quindi volevi chiedermi qualcosa, volevi dire, no, intervenire, volevo interagire? Solo dire, volevo Vai. Solo dire che è molto interessante. Ok. Questo è il mio commento. Ok, per chiudere, se no andiamo troppo per le lunghe, penso che appunto questo fronte di mobilitazione, che è quello sull'aborto e la salute sessuale, sia da percorrere, proprio perché appunto è uno dei punti in cui si concretizza quello che abbiamo detto, l'analisi teorica che abbiamo fatto, è anche uno dei canali in cui c'è forse più bisogno, perché effettivamente le donne sono sono molto isolate da sole, e qui adesso in mano lo annunciamo soltanto perché poi spero che ci sarà occasione, anzi sicuramente ci sarà occasione di parlarne più avanti, ed è il libro di Cinzia Settembrini, che è un'attivista di Obiezione Respinta, e questo libro, edito da Prospero Editore, descrive l'esperienza di Obiezione Respinta, che è un sito innanzitutto, dove un sito con una mappa interattiva dove si possono segnalare i servizi che funzionano e quelli che non funzionano. È un gruppo di automutuo aiuto in rete con altri gruppi dove si può chiedere appunto indicazione, sostegno e ascolto, ed è anche un luogo di, quindi è un luogo di autogestione, ed è anche un luogo di raccolta di testimonianze, e questo libro ne presenta molte. E perché leggere le storie delle altre è anche, come dire, leggere le storie delle altre non solo ci aiuta a riconoscerci nell'esperienza che un'altra donna ha vissuta, ma ci aiuta a comprendere che un problema che viviamo non è solo un problema individuale, ma è un problema politico. Quando vedi che più donne, più individui, più persone stanno passando la stessa esperienza, hanno incontrato gli stessi ostacoli, in qualche modo questo ti dà anche forza, perché ti permette di riconoscere un contesto, di dare un nome a un contesto e di individuare quei rapporti di potere di cui abbiamo parlato prima. E quindi l'invito è a leggere questo libro, e sicuramente per noi ad avere con noi Cinzia per parlarne insieme. Direi fine della carrellata. No, ma cavolo, invece sei stata davvero molto chiara, e è sempre molto utile, e sicuramente meglio quando anche si parla, di essere appunto chiari. E quindi ti ringraziamo anche per tutto l'excursus che hai fatto sulla Polonia, e secondo me bisogna anche fare una puntata ribelle su questo, oltre all'approfondimento su Obiezione Respinta. E, non so, quindi come ci balliamo, vogliamo? Ok, allora ne metto una spumeggiante e... Sì, no, forse quella che avevo impostato è meglio di no. Metto, ops, scusatemi. Ok, non vi dico il titolo. Buon ascolto. Comunque... I say. Beh, insomma, non era proprio la canzone che volevo mettere, ma comunque anche questa è bellissima. Oddio, ok, è finito. Ma forse. Allora, questa era How Long Must I Wait di Dr. Dog, boh, non so come si pronuncia. Comunque, dr.dog. E so che Giulia Ribelle, che ci ascolta, mi cazzerà perché l'avrò letta male. Che lei è la nostra ribelle. Ciao, che sta ad Edimburgo ed è insegnante di inglese, per cui ogni volta che leggo il titolo di una canzone in inglese, cioè lei e le perde tutti i capelli. E vabbè, mi dispiace Giulia. Scusaci. Comunque, vabbè, adesso purtroppo dobbiamo lasciarci perché abbiamo finito la puntata, abbiamo finito il tempo, abbiamo sollevato un sacco di questioni e abbiamo cercato di approfondirle il più possibile. Sicuramente lo spazio era quello che era, quindi direi che ci sono ottimi spunti anche per pensare ad approfondimenti ad hoc per ogni punto nelle prossime domeniche ribelli. E per la giornata di domani. Assolutamente, vero, vero. Quindi speriamo di vedervi tutte, tutti e tutto domani, che è l'8 marzo, in piazza, nelle varie iniziative. Con la mascherina. Con la mascherina e il distanziamento. Fisico ma non sociale. Esattamente, giusto. E quindi con questo vi salutiamo. Io voglio ringraziarvi perché è stata una bellissima occasione. Penso che queste voci diverse che hanno toccato appunto molte corde, alcune più teoriche, altre concretamente visibili nelle nostre vite, con generi e età diverse anche, penso che sia molto vitale, quindi grazie per questa occasione e per il tempo che abbiamo passato insieme. Io volevo dire un gigantesco grazie, anche perché c'è stato molto scambio, è stata molto proficua e ci siamo insegnate cose a vicenda e in modo non nozionistico, mi raccomando. E niente, ci vediamo in piazza. Beh, comunque l'invito è aperto per voi tutte, anche se Rebecca è dovuta scappare, comunque la salutiamo, la ringraziamo. Certo. Siete sempre le benvenute alle Ribelli e speriamo anche in altre future collaborazioni. Olè! Olè! Quindi vi lasciamo tutte e tutte quanti con una bellissima zarrata. La mia zarrata? No, non è la tua. Un'altra zarrata. Okay. Con tanta ermoscia, quindi ci metto proprio enfasi. Esatto, sì. E, giusto, perché comunque il tema era antifascismo e transfemminismo, per cui ci salutiamo con una speciale, una specialissima bella ciao. Quindi ciao bella, bella ciao, ciao a tutto. Ciao a tutto. Ciao.